questa relazione io parlerò esattamente di natura umana e legge naturale, fra virgolette entrambe, tomiste e di ingegneria genetica applicata all'uomo. Il mio discorso si articola in 4 punti a cui ho dato un motto e un titolo. Primo, i vantaggi della tradizione tomista, 2 punti, dalla natura umana ai diritti dell'uomo. Successivamente vedremo, nella seconda parte, creazione ed evoluzione, cioè la corresponsabilità dell'uomo. In terzo luogo, terza parte, ciò che non si può mai fare, andare contro il fine ultimo. E quarto, la ricerca genetica e lo statuto dell'embrione. Cominciamo con la prima parte e cominciamo con una citazione, quindi un testo non mio. Definire il rapporto tra il campo dei diritti umani e quello dei limiti da porre alla sperimentazione ingegneristico-genetica risulta in verità impossibile sul piano filosofico-giuridico se non abbandonando l'ormai consumata concezione della natura, maiuscolo, che il razionalismo illuminista ci ha tramandato in favore di una più moderna concezione che concepisca il modello naturale come modello di equilibrio interdipendente. Tale concezione non escluderà l'intervento tecnico-scientifico sulla natura, ma lo sottometterà alle esigenze di equilibrio dello stesso modello naturale. L'affermazione del professor Guido Gerin nell'introduzione al volume da lui curato Modifiche genetiche e diritti dell'uomo non è molto chiara, ma nella mia relazione, quando parlerò di natura umana, non mi rifarò ad alcuna nozione del razionalismo illuministico. Le tre espressioni linguistiche che io ho messo a confronto nell'enunciazione del contenuto del tema natura dell'uomo, legge naturale e ingegneria genetica umana hanno già di per sé significati ben precisi, in quanto ciascuna proviene da contesti e storie individuabili, ma nell'uso corrente sono così cariche di emotività da avere anche un significato diffuso, generico, spesso fuorviante, anzi sempre fuorviante se ci si pone in un discorso con pretese scientifiche. Se in aggiunta il contesto di uso di queste tre espressioni è quello normativo, sia esso legale giuridico che morale, allora l'esigenza di precisione è doppiamente d'obbligo, in quanto nulla muove più la nostra emotività che quanto riguarda il bene e il male, il dovuto e il proibito, il giusto e l'ingiusto, sia per noi stessi che per gli altri. Nell'enunciazione del tema si è voluto dunque introdurre l'aggettivo tomista per classificare con esattezza le prime due espressioni. Esse vengono pertanto assunte dal e nel contesto teologico-filosofico della tradizione tomista. All'interno di questa tradizione ci sono sostanziali differenze interpretative e probabilmente anche la mia sarà una di più da aggiungere alla lista. Comunque, l'indicazione ci mette in un contesto prettamente teologico e tradizionalmente cattolico. Ciò svela anche l'intento di chi parla. Di fronte alla nuova sfida genetica, sfida che è portata a tutti, a tutta l'umanità, non solo a quella esplicitamente credente e religiosa, noi cattolici, e per di più quelli che tra noi si rifanno ad una precisa tradizione dottrinale, cosa possiamo noi offrire come apporto che contribuisca alla elaborazione di una soluzione accettabile moralmente da un numero consistente di uomini della nostra società postmoderna? Dobbiamo cioè verificare se e come strumenti concettuali classici, da qui le virgolette nel titolo, quali natura dell'uomo e legge naturale, possano ancora essere efficacemente utilizzati nella discussione morale di base sulla ingegneria genetica umana. La prospettiva è dunque esplicitamente dialogica e di partecipazione. Si vuole portare un contributo alla grande etica, alla grande discussione etica pubblica, riconoscendo innanzitutto che il problema posto dall'ingegneria genetica umana è finora irrisolto, nel senso che né la tradizione etica comune dell'Occidente, né una particolare si era mai trovata davanti a qualche cosa di anche lontanamente simile. Si tratta infatti della capacità di mutare stabilmente il comportamento dell'uomo e la sua struttura genetica trasmissibile. Si comprende che cosa questo significhi se si tiene presente che nei mammiferi almeno il 50% dei comportamenti psichici e motori sono ritenuti dipendenti dalla struttura genetica in interazione con i condizionamenti ambientali. Si tratta dunque del potere sulla identità reale e storica dell'individuo singolo e della specie o di gruppi umani potenzialmente molto estesi. L'ingegneria genetica umana, lo sappiamo, è avviata a concretizzare il sogno o l'incubo di tanti scienziati e politici, acquisire e disporre di conoscenze tecniche atte a modificare permanentemente la natura dell'uomo. Ed è qui che l'ingegneria genetica umana si scontra con la nostra tradizione, che ha sempre considerato la natura umana come opera diretta di Dio, cui l'uomo poteva e doveva rifarsi per costruire, attraverso i principi della legge naturale, per costruire un'etica normativa, una scala di valori e dei fini ultimi orientativi della vita individuale e sociale. Consideriamo l'effetto epistemico inverso. Le raggiunte capacità conoscitive e presto anche tecnologiche di dominazione in questo campo, in che modo hanno effetto, se ne hanno, sulla nostra idea di natura umana, ancora una volta fra virgolette? Nel quadro di una tradizione filosofica teologica che, come quella tomista, considera il corpo come il prodotto sostanziale dei principi formale e materiale, la manipolazione definitiva del corpo non può non destare preoccupazione. Attraverso la sua parte sensibile, quella che nel modello Popper-Eccles è il mondo uno, attraverso la sua parte sensibile, infatti, si muta realmente tutto l'uomo. L'anima spirituale in sé, in quanto trascende il cosmo, non può essere raggiunta nella sua struttura, ma in quanto forma corporis, principio da cui l'organizzazione del vivente umano dipende, sembra ben raggiungibile dall'ingegneria genetica umana, almeno nei suoi, dell'anima, nei suoi effetti da noi coglibili e misurabili. Vale a dire, in quanto parte di quello che con l'io, il mondo 2 del modello Popper-Eccles, in quello che con l'io forma la persona umana. All'io, al self, il corpo sarà sempre unito sostanzialmente, anche dopo la morte, come principio di individuazione almeno, e in qualche modo anche in quella che noi chiamiamo la visione beatifica. La tradizione tomista non può essere accusata di pensare il corpo umano cartesianamente come macchina miracolosamente unita al pensante. Essa ha gli strumenti concettuali attraverso la teoria della consostanzialità del corpo per misurare filosoficamente la portata anche teoretica dell'ingegneria genetica umana. La possibilità di quest'ultima, bisogna ammetterlo, cambiano radicalmente la visione anche teoretica dell'uomo. Sembra non esistere di fronte a questa verità, escamotage possibile, come sarebbero tentativi di rifugiarsi in affermazione circa i diversi livelli conoscitivi, o peggio ancora, nella comprensione e chiarificazione tipica di una certa ermeneutica di derivazione idealistica. Uno dei punti forti della sintesi tomasiana, largamente condiviso dalla scienza contemporanea, ma non dalla filosofia, è l'affermazione che non esistono logiche diverse per la ragione e per la fede, in linguaggio tomasiano, o logiche diverse per le scienze della natura e le scienze dell'uomo, come diciamo noi oggi. Forse siamo però ancora in tempo per costruire, per la prima volta nella storia, quella che Dietmar Mead, teologo morale a Tubinga, ha chiamato un'etica preventiva. Mentre finora, di fatto, la riflessione etica non specialistica, ed ancora più quella specialistica, era sempre stata a posteriori rispetto alla problematica vissuta. Dopo aver accertato la capacità da parte dell'uomo di realizzare determinati comportamenti, veniva costruita una soluzione moralmente accettabile secondo i principi e i modelli contemporanei. Si pensi ad esempio al prestito bancario in epoca tardo-rinascimentale o tardo-medievale. Ora invece, sapendo quanto ben presto potremo fare, e forse si sta già facendo mentre noi qui ancora parliamo, possiamo e dobbiamo riflettere sulla normativa morale e congiuntamente giuridica che possa essere congruente al nuovo possibile prevedibile comportamento umano reale. Il riferimento alla normatività giuridica è d'obbligo, per quanto non in linea con l'attuale trend postmoderno. I comportamenti moralmente significativi che abbiano un aspetto sociale rilevabile non possono a priori non essere sottoposti ad esame giuridico, trattandosi per di più, in questo caso, del massimo bene comune, cioè la struttura della vita umana anche nella sua trasmissibilità. Sarebbe ben strano che il diritto statuale si sottraesse proprio qui al proprio compito, cioè l'ordinamento nella concordia dei maggiori beni sociali. Il problema a questo punto si pone in termini che potrebbero essere così sommariamente enunciati. Da dove partire per una legislazione nazionale e sovranazionale nel senso di parallele, in un campo dove praticamente non esistono modelli né costituzionali né tantomeno di diritto positivo ordinario? Il ricorso alla filosofia dell'uomo o anche alla filosofia del diritto non promette nulla di buono nel senso della operatività. Siamo infatti di fronte alla necessità cogente ed urgente di giungere a legislazioni che, come la stessa normativa morale, non solo regolino i comportamenti, ma li indirizzino per quanto possibile verso fini accettabili e desiderabili da una congrua parte almeno dei soggetti agenti nel campo regolato. La tradizione tomista, che riconosce nel bene dell'uomo il primo termine di ogni possibile etica normativa, ci viene, forse, e io penso fortemente, in aiuto. Non si tratta infatti di dettare una serie di obbligazioni e proibizioni, prima morali e poi possibilmente giuridiche, nel campo diretto ed indiretto di applicazione dell'ingegneria genetica umana. Ma si tratta innanzitutto di individuare dove si situa in tale campo operativo il bene e il male dell'uomo, affinché se ne possano trarre in seguito norme congruenti. Viene pertanto spontaneo oggi il ricorso ai diritti dell'uomo come complesso formulato di principi giuridici altamente astratti e quindi generalissimi, che potrebbero venirci in aiuto operativo nella fattispecie. E questo perché sono fortemente convinto che, come afferma Francesco Viola, Filosofia del diritto a Palermo, nella sua bella raccolta di saggi, diritti dell'uomo, diritto naturale, etica contemporanea, sono convinto con lui, ha senso parlare propriamente di diritti dell'uomo solo quando all'aspetto morale si aggiunge la protezione giuridica. Quindi i diritti dell'uomo applicati al campo morale dell'ingegneria genetica umana dovrebbero, innanzitutto, primo, essere strumento concettuale per quanto riguarda la legislazione statuale. Essendo essi espressione positiva di un ampio consenso, potrebbero essere mediatori per un influsso della legge naturale e di tutto ciò che essa rappresenta, la natura umana innanzitutto, nella vita pubblica. Secondariamente, due, la evidente limitazione dei diritti dell'uomo di essere traduzione della legge naturale solo per quanto riguarda il pubblico, i rapporti sociali pubblici, potrebbero orientare ulteriormente il pensiero morale verso interessi concretizzabili. Naturalmente, con tutta la distanza critica che un prodotto storico come la formulazione dei diritti dell'uomo richiede, cioè non mitizzandoli né in sé né nella loro funzionalità sociale realmente operativa. Passiamo alla seconda parte, a cui ho dato il motto e titolo Creazione ed evoluzione, la corresponsabilità dell'uomo. In un contesto creazionista come quello cristiano, la prima risposta istintiva alla nuova possibilità di intervento sul genoma umano è tendenzialmente negativa. Dio creatore crea direttamente l'anima dell'uomo e già il semplice parlare dell'evoluzione dei viventi che ha portato a disporre di un corpo atto a congiungersi ad una tale anima immortale è considerato ancora oggi con un certo disagio, se non proprio con sospetto. Pur tralasciando gli estremismi fondamentalisti anti-evoluzionistici presenti anche nella nostra Chiesa, è innegabile che il prendere sul serio la teoria dell'evoluzione implichi non solo un cambiamento generale della visione dell'atto creativo, ma anche cambiamenti su parti costitutive di questa visione. Nel bellissimo libro, e anche molto grosso, Il progetto della vita del premio Nobel italo-americano Renato Dulbecco, nell'ultimo paragrafo del 20° capitolo, il libro è nell'originale inglese del 1987. Nell'ultimo paragrafo del 20° capitolo si dice, porta il titolo Un ruolo per la creazione? Punto interrogativo. E sembra evidente che l'anticreazionismo, diremmo farouche per non dire feroce, dell'autore riguarda l'origine della vita è meramente funzione dell'opposizione ai fondamentalismi americani. Sembrerebbe quasi che questi fondamentalismi intendano creazione ed evoluzione come strettamente, logicamente incompatibili. Io vorrei invece considerare a grandi tratti le implicazioni per il concetto di creazione che per il concetto di creazione ha l'intervento genetico terapeutico, sul quale nessun non fondamentalista ormai ha obiezioni. Il riconoscimento che l'uomo ha diritto di intervenire geneticamente per le correzioni su un individuo a livello somatico e quindi non sui suoi discendenti, non quindi a livello delle cellule germinali, pare implichi logicamente l'accettazione dell'idea che Dio non ha voluto queste mutazioni evidentemente dannose per l'uomo e per questo uomo fonte di dolore, di minore capacità intellettiva, di ridotta capacità di relazione. Se quindi noi possiamo intervenire su questi errori, in quanto mali dell'uomo, non voluti da Dio, perché non ipotizzare anche a livello di ingegneria genetica umana alterativa, cioè migliorativa, che l'uomo porti anche in questi casi una corresponsabilità con Dio. Ne seguirebbe che di per sé tale tipo di intervento non sarebbe da escludersi a priori come contrario al progetto di Dio. Ma andiamo per gradi. In primo luogo, si potrebbero ipotizzare interventi che tecnicamente si definirebbero terapeutici non curativi, bensì preventivi. Perché non ammettere, come moralmente auspicabile, la possibilità teoretica di interventi che, ad esempio, rendano con l'ingegneria genetica umana l'uomo futuro immune dal virus del raffreddore che tanto ci opprime per 6 mesi all'anno. Un passo successivo e chiaramente innovativo sarebbe costituito da interventi univocamente migliorativi. Potremmo quindi ipotizzare interventi sul DNA che allunghino la vita, nel senso dell'età massima media, cioè un intervento contro il processo genetico di senescenza. Oggi i genetisti ritengono probabile che la nostra specie sia programmata per un'età massima di 100-120 anni, in quanto nel corso della storia questo limite è stato raggiunto in varie condizioni e non è mai stato sostanzialmente superato da un numero consistente di persone. Se si riuscisse a regolare l'invecchiamento in modo da arrivare a 100 anni nelle condizioni nelle quali oggi arriviamo ad 80, cosa ci sarebbe di moralmente illecito? Non è certo l'immortalità, ma io credo che non dispiacerebbe a molti fra noi. Noi non abbiamo già creato condizioni igieniche, mediche, nutrizionali, che ci hanno portato nei nostri paesi al limite degli 80 anni di età, senza grosse difficoltà e comunque a un'età di attesa di 75 anni per i due sessi. Eppure, questa costituisce, se ottenuta con DNA ricombinante, una tipica alterazione non terapeutica né in senso riparativo né in senso preventivo. Però, fedeli all'impostazione tomasiana, mi chiedo quale sarebbe l'aspetto di bene di tale prolungamento della vita. Mi sembra che siamo di fronte a dei beni raggiungibili con il prolungamento della vita davanti a dei beni tipicamente umani. L'accumulo della scienza e dell'esperienza che condurrebbe a possibilità generali di una vita più umana non solo per i più anziani, ma per tutti coloro che approfitterebbero del loro sapere. Avremmo possibilità di vivere più vite, ad esempio esercitare successivamente professioni impegnative, come oggi già è parzialmente possibile, in un modo molto diverso rispetto a solo 100 anni fa. Potremmo anche imprimere maggiormente nelle strutture del nostro mondo una saggezza che non debba essere riconquistata o quasi da ogni generazione. Si potrebbe anche ipotizzare, sempre nella linea della genetica migliorativa, la possibilità di ridurre il periodo di sonno che attualmente prende circa un terzo della nostra vita. Se si potesse ottenere lo stesso risultato di riposo e rigenerazione psichica con metà del tempo attuale, si avrebbe un tempo di veglia superiore e quindi possibilità maggiori di azioni ed esperienze specificamente umane. E anche qui il bene che ne deriverebbe sarebbe non solo a vantaggio del singolo, ma della comunità tutta. I due esempi portati, la longevità ben portata e il raccorciamento dell'attività del sonno, lo si sarà notato, non sono poi così stravaganti. Suonano un po' insoliti, ma non ci sembrano estranei, innaturali. Appunto, questo si voleva sottolineare negli esempi. Sarebbero migliorazioni in linea con la natura, che nel caso dell'uomo tende a vivere più a lungo, dato evidentemente certe condizioni di qualità della vita, e tende anche allo stato di veglia, di coscienza, se questo fosse possibile senza uno stress. Si potrebbe allora, provvisoriamente, formulare l'ipotesi che sia un principio morale ritenere che sono non solo illecite, ma buone eventuali modifiche migliorative del genoma che siano come la prosecuzione di tendenze buone già presenti nella, sottolineato, nella nostra natura biologica attuale. E non mi vergogno di usare questa espressione, che è molto proibita fra i moralisti. Ugualmente si potrebbe aggiungere anche la regola, quindi non il principio, ma la regola, che tali modificazioni debbano essere accettabili ed accettate dalla collettività attraverso un processo di formazione di consenso morale e successivamente politico, cioè pubblico. Sarebbero quindi da escludersi, perché non se ne vede il senso di bene per la comunità umana e perché non sulla linea direttrice della nostra natura allo stato attuale della sua evoluzione biologica, interventi destinati ad esempio a produrre nell'uomo un terzo occhio posteriore. Non è condividibile, pertanto, concludendo l'argomentazione, all'estremo opposto di Dulbecco, la posizione in un certo senso ugualmente non differenziata del collega professore di morale Dionigi Tettamanzi, che oggi è vescovo e segretario della CEI, il quale nel suo ultimo libro, che peraltro è un bel libro, La bioetica, nuove frontiere dell'uomo, pubblicato in seconda edizione nel 1990, dove afferma: controllando la stessa origine della vita, l'uomo è tentato di controllare l'intera vita e la stessa morte, ma così non realizza l'antico sogno mitico dell'umanità, l'uomo diviene creatore di se stesso. Sembra evidente che l'opposizione a ogni intervento genetico alterativo non è fondato se si argomenta in modo allusivo, immaginifico e in definitiva non razionale. Cosa succederebbe, ad esempio, se l'attuale bilanciamento naturale di nascite maschili e femminili venisse rotto per cause evolutive indefinibili? Sarebbe immorale, se possibile per via genetica, ristabilire l'equilibrio, senza evidentemente né feticidi né aborti? Il fine degli esempi fin qui ipoteticamente proposti è il bene di tutti, e la cosa realizzabile è un bene umano evidente. I rischi di ricerca per ottenere questo risultato sono da considerarsi attentamente anche, come anche, anzi prima di tutto, la esclusione assoluta durante la ricerca dell'uso lesivo o distruttivo di embrioni umani. Quest'ultima condizione, di fatto, limita ulteriormente in modo drastico le possibilità dell'intervento ricombinante. In questi esempi si è accennato ai due grandi tipi di ingegneria genetica umana, quella terapeutica e quella migliorativa, come anche che un intervento genetico umano può essere somatico, cioè tendente a modificare una parte del programma del soggetto, esempio non perfetto, ma che comunque ha fatto tenere al suo scopritore il premio Nobel della medicina per il 90, l'innesto di midollo osseo. E poi esiste una forma di intervento germinale dove si modifica il patrimonio trasmissibile. E passiamo alla terza parte. ciò che non si può mai fare, andare contro il fine ultimo. Tornando alla funzionalità normativa, o almeno valoriale, della natura umana e della legge naturale, è necessario mettere a punto non poche premesse. La prima delle quali potrebbe essere che una discussione che si muove a questi livelli di astrazione difficilmente si può risolvere, almeno geneticamente e quindi concretamente, se non con l'assunzione di assiomi primi non ulteriormente fondabili. Si tratta di opzioni, di prese di posizione, che hanno inizialmente solo l'esigenza della consistenza, cioè della non contraddizione interna. Conformemente alla tradizione tomista va sottolineato che il termine natura umana indica le strutture essenziali dell'uomo sostanza, nelle quali è inclusa anche la capacità notevolissima di imparare, quindi di cambiare l'immagine emotiva ed intellettuale di sé, l'immagine dell'uomo che un individuo e tanti individui uniti insieme in una cultura ha in una data epoca. Inoltre, proprio l'idea classica atomista di natura umana implica anche la responsabilità dell'uomo per se stesso. Non potremmo allora, in questo contesto, pensare che l'uomo può moralmente portare la responsabilità non solo del proprio agire e del come agire, non solo del proprio essere e non essere, ma anche del modo in cui questo essere è, qualche cosa di analogo alla qualità della vita, punto interrogativo. Per ora, le modifiche genetiche sull'uomo e sui mammiferi in genere, anche teoricamente possibili, sono poche. Ma quelle che rientrano nelle indicazioni operative sopra accennate potrebbero essere moralmente e giuridicamente accettabili. L'evoluzione del nostro mondo, del nostro cosmo, dal abiotico al biotico, dalla vita alla conoscenza, per noi cristiani non consiste in fatti estranei alla provvidenza, in qualsiasi modo la si voglia intendere. Perché non potrebbe essere lo stesso con l'evoluzione culturale che a quanto sembra ha sostituito nell'uomo quello della vita? Perché l'evoluzione endosomatica, diretta culturalmente e quindi responsabilmente, dovrebbe essere meno accettabile di quella esosomatica? Perché non pensare che la provvidenza, che secondo la dottrina classica agisce attraverso cause seconde, questa volta possa agire attraverso cause seconde intelligenti ed autonome e quindi capace di moralità? I limiti, oltre a quelli della non estraneità alla linea della natura biologica umana allo stato attuale, del rischio e del rispetto degli altri esseri umani anche allo stato di embrione, oltre a questi, i limiti sono posti per noi cristiani dai fini generali per i quali l'uomo è creato. Dio ci ha creato per conoscerlo, lodarlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell'altra in paradiso, recitavano i bambini italiani al catechismo fino a pochi anni fa. Quello che non possiamo fare come cristiani è allora pensare all'autonomia dall'origine e dai fini, a porci come totali demiurghi non solo dell'agire, ma anche dell'essere nostro, non tanto del suo divenire quanto soprattutto della sua origine prima e della sua finalità ultima. Quindi, ad esempio, non sarebbe bene, in questo contesto, se la logica ha ancora un senso, non sarebbe bene produrre un essere umano non dotato di volontà propria sufficiente o di capacità intellettuali limitate o estremamente specializzate. Questo andrebbe contro le finalità ultime della creazione secondo la nostra fede. Concretamente, attraverso l'evoluzione e la generazione, noi riceviamo ed accettiamo la nostra stessa natura, che resta dunque base per modifiche non solo di fatto, per impossibilità tecnica immediata, ma anche di ispirazione e di direzione morale dell'azione progettante. E questo in nome, lo ripeto, del principio che per essere morale un'azione deve apparire ed essere buona per tutti coloro che sono coinvolti. In concreto, per quanto la teologia possa esserlo, ci sarà di orientamento la legge naturale, soprattutto nell'aspetto fondante per l'etica di inclinationes naturales. La sopravvivenza individuale, la socialità prima e seconda, la conoscenza, non sono vuote parole, ma finalità intrinseche alla natura umana che è impossibile eliminare in quanto corrispondono a bisogni di base dell'uomo nel suo stato di evoluzione attuale, cioè del mondo uno dell'uomo secondo lo schema Popper Eccles. A meno che non si vogliano creare esseri inferiori a noi, al nostro servizio, cosa da escludersi per noi cristiani, in quanto andrebbe contro il principio creazionista appena affermato, cioè la destinazione diretta ed esclusiva di ogni uomo a Dio. Detto questo, in relazione al capoverso precedente, la finalità del ritorno a Dio avviene strumentalmente attraverso i beni umani, ma essenzialmente, fini insostituibili, attraverso l'acquisizione delle virtù umane, cioè con la nostra progressiva santificazione. Se questo è il grande fine, il ritorno a Dio attraverso il bene realizzabile, attraverso il bene realizzato, anche i possibili interventi saranno influenzati, almeno negativamente, da questa finalità veramente unica, anche se finalità ultima. Un tale discorso sul fine ultimo non è evidentemente capace di consenso in una discussione di etica pubblica. Ma anche a destra della Chiesa non possiamo lasciarlo sempre, totalmente cadere. È la base della visione cristiana dell'uomo e quindi parte della nostra specificità storica in relazione ad altre visioni del mondo e dell'uomo. Le tendenze naturali, trascritte in termini morali nella legge naturale, hanno oggi l'ottimo alleato nel dibattito pubblico al quale si è accennato all'inizio i diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo svolgono nell'odierno dibattito pubblico, culturale e politico, lo stesso ruolo, relativamente al contesto si intende, che in altri tempi svolse il diritto naturale. Sono cioè un'istanza sovrappositiva, ampiamente accettata, e quindi capace di costituire e incrementare il consenso sociale. Sembra che a livello internazionale le proposizioni di diritti dell'uomo formulate oltrepassino già le 300. Ciò significa che è possibile cercare consenso sociale di volta in volta su una serie di esse e quindi che i diritti dell'uomo hanno una operatività politica reale e verificabile. E veniamo all'ultima parte. La ricerca genetica e lo statuto dell'embrione. Il vero problema morale e giuridico attuale dell'ingegneria genetica umana e della natura umana sembra consistere, comunque oggi concretamente, nel riconoscimento di un chiaro statuto all'embrione. È un problema apparentemente non etico-morale, bensì antropologico, per quanto forse risolvibile per via di discorso normativo, come io credo sia possibile fare. Se non si stabilisce questo all'inizio, tutto il resto del discorso sull'ingegneria genetica umana viene inficiato. Se invece si riconosce all'uovo fecondato, allo zigote, i diritti di persona, allora si semplifica tutto, non è possibile sopprimerlo direttamente né lederlo e la manipolazione è ammessa solo per il suo bene individuale. Il grande nodo morale attuale della controversia reale sull'ingegneria genetica umana è lo statuto dell'embrione, in quanto la ricerca genetica è in pieno svolgimento e il materiale usato è spesso un embrione o un feto o un materiale da esso proveniente. Ci troviamo cioè davanti a una vera aporia tra prassi scientifica e prassi morale. Se si riesce a uscire da questa impasse e a riconoscere chiaramente e giuridicamente lo statuto personale individuale dell'ovulo fecondato, possiamo guardare a livello sociale con fiducia al futuro. Immediatamente, infatti, scatterebbero i diritti dell'uomo anche per il piccolo uomo che è ancora embrione o feto, con tutte le conseguenze di protezione giuridica positiva. Condensando l'argomentazione, come si deve rinunciare a certe sperimentazioni o produzioni chimiche e nucleari perché troppo pericolose, anche se cariche di possibilità positive per il futuro dell'uomo, così nel caso dell'embrione non possiamo compiere altro ragionamento che se non è in sé bene farlo, non si fa. Senza tener conto delle molte e certamente ottime risultanze concomitanti con un comportamento immorale nei suoi confronti, che un comportamento immorale nei suoi confronti produrrebbero per altri e per altre generazioni. Né si può applicare alla vita umana il principio della bilancia dei beni. La vita non è tecnicamente un bene, è identica, è parte consostanziale con il portatore di tutti i beni e quindi anche con il portatore di tutti i valori morali, cioè con la persona umana. È quindi incommensurabile con un qualsiasi bene dell'uomo o con qualsiasi bene di altri uomini. In relazione alle molte paure di fronte all'ingegneria genetica umana, in parte infondate, ma non del tutto ingiustificate, sarà bene tenere presente che l'intervento genetico prevedibile sarà per lungo tempo piuttosto limitato. Pare che disponiamo di 100.000 geni più gli effetti dell'azione combinante fra di loro. Ne deve passare ancora molto di acqua sotto i ponti prima che si possa veramente parlare di nuova creazione. Per questo non è insensato pensare che ancora per un lungo futuro l'ingegneria genetica umana non cambierà la nostra natura somatica, anatomo-fisiologica e comportamentale nella sua sostanziale struttura di essere conoscente e libero, ma intramondano. Questa intramondanità è il luogo dove conoscenza e libertà sono, e non esistono né lo possono fuori dal corpo o da una stretta relazione con esso. L'accettazione del principio che in questa esistenza corporea e terrena l'uomo realizza se stesso secondo il progetto di Dio non dovrebbe generare su questo campo particolare speciali norme e divieti. Si tratta in definitiva di interventi terapeutici o migliorativi nel senso di aumentare qualità già presenti o eliminare debolezze che tutti vorremmo non avere. Interventi al di fuori. Il primo fronte è nella chiarezza che gli ha indicato sugli obiettivi dell'ingegneria genetica. Qui compare un verbo forse nuovo, almeno così. Curare sì, alterare no, modificare eventualmente sì. Su questo primo obiettivo dell'ingegneria genetica, in cui ha offerto una relativa chiarezza, una certa chiarezza, vi è il secondo, il concetto o il recupero della natura umana biologica, appunto per interferire sulla valutazione di quei tre obiettivi, che ripetendo, curare sì, modificare no, migliorare eventualmente sì. Di questo noi siamo grati, ecco, di aver portato un momento questo discorso che normalmente viene fatto sul piano molto generico, abbastanza sfumato, su affermazioni certamente discutibili, ma sulle quali appunto c'è possibilità di riflessione e anche di avanzamento nella verità. si chiude in qualche modo con un atteggiamento anche di speranza, perché lui parlava dell'ingegneria genetica come possibilità di allungare il corso della vita e anche moderare e dosare la questione del sonno, che per qualcuno rappresenta un terzo, ma per qualcuno può rappresentare anche i due terzi, non dipende, insomma, no? Quindi chiudiamo questa prima mattinata con qualche affermazione.